L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Ventesima puntata. Astolfo sulla luna. Lettura poetica di Arnoldo Foà. Narratore Gianni Bonagura. Nel cuore dell'Africa, non lontano dalle irraggiungibili sorgenti del Nilo, sta una città tutta d'oro, Nubia, capitale del leggendario regno cristiano dell'Etiopia, dove mai viaggiatore può metter piede perché circondato da feroci genti pagane. Re d'Etiopia è Senapo, detto altrimenti il prete Gianni, il più ricco sovrano del mondo e il più infelice. Per una maledizione divina, avendo egli osato muovere alla conquista del paradiso terrestre col suo esercito montato su cammelli ed elefanti, ora è perseguitato dalle arpie. Non può portare cibo alla bocca senza che questi uccellacci calino dal cielo e rovescino e arraffino le vivande con le unghie e i denti e imbrattino di fetide lordure quel che resta. La maledizione durerà, dice una profezia, finché non arriverà a Nubia un cavaliere, volando su un destriero alato. Stando così le cose, il giorno che nel cielo d'Etiopia apparve l'ippogrifo con Astolfo in sella, lo accolsero come un angelo del cielo. «Non sono un angelo né un santo», disse Astolfo, «ma sono pronto a fare tutto quel che posso». Si sa che nessuno ha più naturalezza d'Astolfo nel destreggiarsi con oggetti magici ed esseri soprannaturali. Ed è naturale che, a forza di passar di mano in mano, ogni cosa finisca per trovare la persona più adatta per tenerla. Così l'ippogrifo e il corno magico erano rimasti in mano ad Astolfo, che se ne serviva per viaggiare incolume attraverso l'Africa impervia e incantata in cerca d'alleati per la santa causa di Carlo Magno. Persuaso che dopo l'arrivo del cavallo che vola le arpie non si sarebbero più fatte vive, Re Senapo dà ordine di imbandire finalmente un banchetto come si deve, in onore dell'ospite. Non avevano ancora portato alla bocca il primo cucchiaio di minestra quando sentono un quach quach. I convitati alzano il capo. Un uccellaccio con la faccia d'arpia stava appollaiato sulla spalliera d'ogni sedia. Con uno strepito improvviso, tutte le arpie aprirono le ali e si buttarono sul cibo sbranandolo e lordandolo. Astolfo corre a slegare l'ippogrifo e s'alza a volo. Presto il cielo fu tutto un arruffio di penne, pennacce nere e sozze di quei rapaci e pennine candide e scattanti del cavallo alato. Astolfo dava di spada contro quei ventri gonfi, contro quelle zampe ricurve che ancora artigliavano prosciutti e provoloni, ma lo spostamento d'aria dei fendenti faceva sì che le arpie riuscissero a non esser mai colpite. Giù a terra si vedeva Re Senapo piccolo piccolo che si strappava i capelli e la lordura d'uccello dal capo. Neanche il cavallo alato poteva nulla contro la sua maledizione. In quel momento Astolfo si ricordò che aveva il corno magico a tracolla. Lo porta alle labbra e soffia. Al suono tremendo gli uccellacci voltano la coda e fuggono ad ali levate. Astolfo dietro, sempre sfiatandosi a suonare. All'orizzonte si profila un'immensa montagna, sulla cui cima nascosta dalle nubi stanno le sorgenti del Nilo e il paradiso terrestre d'Adamo ed Eva. Ai piedi della montagna s'apre una grotta nelle viscere della terra. È la bocca dell'inferno. Là dentro si rifugiano le arpie. Il paladin, col suono orribile, venne le brutte arpie cacciando in fuga e in rotta, tanto che a piè d'un monte si ritenne, ov'esse erano entrate in una grotta. L'orecchie attente allo spiraglio tenne, e l'aria ne sentì percossa e rotta, da pianti ed urli e da lamento eterno, segno evidente quivi esser l'inferno. Astolfo si pensò d'entrarvi dentro e veder quei che hanno perduto il giorno, e penetrar la terra fino al centro e le bolge infernal, cercare intorno. Di che debbo temer, dicea, s'io ventro che mi possa aiutar sempre col corno? Farò fuggir Plutone e Satanasso e il cantri fauce leverò dal passo. Dell'alato destrier presto discese e lo lasciò legato a un arbuscello. Poi si calò nell'antro e prima prese il corno, avendo ogni sua speme in quello. Non andò molto innanzi che gli offese il naso e gli occhi un fumo oscuro e fello, più che di pece grave e che di zolfo. Non sta ad andar per questo innanzi Astolfo, ma quanto va più innanzi, più si ingrossa il fumo e la caligine, e gli pare che andare innanzi più troppo non possa, che sarà forza addietro ritornare. Ecco, non sa che sia, vede far mossa dalla volta di sopra come fare il cadavere appeso al vento suole che molti dì sia stato all'acqua e al sole. Sì poco e quasi nulla era di luce in quella affumicata e nera strada che non comprende e non discerne il duce chi questo sia che sì per l'aria vada. E per notizia averne si conduce a dargli uno o due colpi della spada. Stima poi con uno spirito esser quel Debbia che gli par di ferir sopra la nebbia. Allor sentì parlar con voce mesta. Deh, senza fare altrui danno, giù cala. Purtroppo il negro fumo mi molesta che dal fuoco infernal qui tutto esala. Il duca stupefatto allor s'arresta e dice all'ombra: se Dio tronchi ogni ala al fumo, sì che a te più non ascenda, non ti dispiaccia che il tuo stato intenda. E se vuoi che di te porti novella nel mondo su, per satisfarti sono. L'ombra rispose: alla luce alma e bella, tornar per fama ancor sì mi par buono, che le parole forza che mi svella il gran desir ch'ho d'aver poi tal dono, e che il mio nome e l'esser mio ti dica, benché il parlar mi sia noia e fatica. E cominciò: signor, Lidia sono io, del re di Lidia in grande altezza nata, qui dal giudicio altissimo di Dio al fumo eternamente condannata per esser stata al fido amante mio mentre io vissi spiacevole ed ingrata. D'altre infinite è questa grotta piena, poste per simil fallo in simil pena. Sta la cruda Anassarete più al basso, ove è maggiore il fumo e più martire. Restò converso al mondo il corpo in sasso, e l'anima qua giù venne a patire, poiché veder per lei l'afflitto e l'asso suo amante appeso poté sofferire. Qui presso è Dafne, corsa vede quanto errasse a fare Apollo correr tanto. Lungo saria se gli infelici spirti delle femmine ingrate che qui stanno volessi ad uno riferirti, che tanti son chi in infinito vanno. Più lungo ancor saria gli uomini dirti, a quai l'essere ingrato ha fatto danno e che puniti sono in peggior loco ove il fumo gli acceca e cuoce il fuoco, perché le donne più facili e prone a creder son, di più supplicio è degno chi lor fa inganno. Il sa Teseo e Iasone, e chi turbò a Latin l'antico regno, sallo chi incontra sé il frate Absalone, per Tamar trasse a sanguinoso sdegno, e t'altre, che sono infiniti, che lasciato anche in moglie e chi mariti. Tra tutti i pellegrini che mai calarono viventi nell'oltretomba, Astolfo è il meno incline a indagini approfondite. Finché si tratta di constatare che sulle soglie dell'inferno stanno gli amanti ingrati e fatui e ingannatori, questo è un tema che rientra nelle sue competenze, ma più in là non s'azzarda. S'affretta a tornare fuori e a murare la bocca dell'inferno con sassi e tronchi d'albero, perché le arpie vi restino chiuse, certo, ma forse anche con la segreta intenzione di non farci entrare più nessuno. Lavatosi dal nero fumo infernale, Astolfo rimonta in sella. L'ippogrifo vola oltre le nubi, fuori della sfera terrestre, e raggiunge la cima della montagna che si innalza nel cielo della luna. Sulle soglie del paradiso terrestre, Astolfo è accolto da un santo poeta, Giovanni Evangelista. Con pacata cortesia, ma senza tergiversare, Giovanni dice ad Astolfo che se crede d'esser salito lassù per qualche suo merito speciale si sbaglia di grosso. Sappia che è solo uno strumento della volontà divina per portar soccorso a Carlo Imperatore e al suo esercito. La situazione sta in questi termini. Orlando, che aveva avuto da Dio forza e invulnerabilità perché se ne servisse in difesa della santa fede, ha tralignato, innamorandosi di una frivola pagana. Dio l'ha punito togliendogli il senno come già a Nabucodonosor, ma soltanto per 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, Astolfo è stato qui chiamato appunto perché venga a riprendere il senno d'Orlando. Nulla mai nell'universo va perduto. Le cose perse in terra dove vanno a finire? Sulla luna. Nelle sue bianche valli si ritrovano la fama che non resiste al tempo, le preghiere in malafede, le lacrime e i sospiri degli amanti, il tempo perduto dai giocatori. Ed è là che, in ampolle sigillate, si conserva il senno di chi ha perduto il senno, in tutto o in parte. La luna quella notte passava proprio vicino alla montagna. Astolfo e San Giovanni Evangelista, salendo sul carro d'Elia, vedono la luna farsi enorme e la terra là in basso impicciolire fino alle dimensioni di una pallina. Poi che non parla più Lidia infelice, va il duca per saper s'altri vi stanzi, ma la caligine alta, che era ultrice dell'opere ingrate, sì gli ingrossa innanzi che andare un palmo sol più non gli lice, anzi a forza tornargli conviene, anzi perché la vita non gli sia intercetta dal fumo i passi accelerar con fretta. Il mutar spesso delle piante a vista di corso e non di chi passeggia o trotta, tanto salendo in verso l'erta acquista che vede dove aperta era la grotta, e l'aria, già caliginosa e trista, dal lume cominciava ad esser rotta. Alfin, con molto affanno e grave ambascia, esce dell'antro e dietro il fumo lascia. E perché del tornar la via sia tronca a quelle bestie che ansi ingorde lepe, raguna sassi e molti arbori tronca, che veran qual da momo e qual di pepe, e come può, dinanzi alla spelonca, fabbrica di sua man quasi una siepe. E gli succede così ben quell'opra che più l'arpie non torneran di sopra. Il negro fumo della scura pece, mentre gli fu nella caverna tetra, non macchiò sol quel capparia che infece, ma sotto i panni ancora entra e penetra, sì che per trovare acqua andar lo fece cercando un pezzo, e alfin fuor d'una pietra vide una fonte uscir nella foresta, nella qual si lavò dal pie alla testa. Poi monta il volatore e in aria s'alza, per giunger di quel monte in sulla cima che non lontan con la superna balza dal cerchio della luna essersi stima. Tanto è il desir che di vederlo incalza ch'al cielo aspira e la terra non stima. Dell'aria più e più sempre guadagna, tanto che al gioco va della montagna. Zaffir, rubini, oro, topazi e perle e diamanti e crisoliti e acinti potrian i fiori assimigliar che per le liete spiagge v'avea l'aura dipinti. Sì verdi l'erbe che possendo averle quaggiù ne foran gli smeraldi vinti, né men belle degli arbori le frondi e di frutti e di fior sempre fecondi. Cantan fra i rami gli augelletti vaghi, azzurri e bianchi e verdi e rossi e gialli, mormoranti ruscelli e cheti laghi di limpidezza vincono i cristalli, una dolce aura che ti par che vaghi a un modo sempre e dal suo stil non falli facea sì l'aria tremolar d'intorno che non potea noiar calor del giorno. E quella ai fiori, ai pomi e alla verzura gli odor diversi depredando giva, e di tutti faceva una mistura che di soavità l'alma nutriva. Surgea un palazzo in mezzo alla pianura, c'acceso esser parea di fiamma viva, tanto splendore intorno e tanto lume raggiava fuor d'ogni mortal costume. Astolfo, il suo destrier, verso il palagio che più di 30 miglia intorno aggira, a passo lento fa muovere adagio e quinci e quindi il bel paese ammira e giudica po' quel brutto e malvagio e che sia il cielo e ta natura in ira questo capitiam noi fetido mondo, tanto è soave quel, chiaro e giocondo. Come egli è presso al luminoso tetto, attonito riman di maraviglia, che tutto d'una gemma è il muro schietto, più che carbonchio lucida e vermiglia. Oh, stupenda opera! O Dedalo architetto, qual fabbrica tra noi le rassimiglia? Taccia qualunque le mirabil 7 moli del mondo in tanta gloria mette. Nel lucente vestibulo di quella felice casa un vecchio al duca occorre, che il manto ha rosso e bianca la gonnella, che l'un può al latte e l'altro al minio opporre. I crini a bianchi e bianca la mascella di folta barba che al petto discorre. Ed è sì venerabile nel viso ch'un degli eletti par del paradiso. Costui con lieta faccia al paladino che riverente era d'arcion disceso disse: O baron, che per voler divino sei nel terrestre paradiso asceso, come che nella causa del cammino, nel fin del tuo desir da te sia inteso, pur credi che non senza alto misterio venuto sei dall'artico emisperio. Per imparar come soccorrer dei Carlo e la santa fe tor di periglio, venuto meco a consigliarti sei per così lunga via senza consiglio. Né a tuo saper né a tua virtù vorrei che esser qui giunto attribuissi, o figlio, che né il tuo corno né il cavallo alato ti valea, se da Dio non t'era dato. Ragioneremo più adagio insieme poi, e ti dirò come a procedere hai. Ma prima vienti a ricrear con noi, che il digiun lungo denoiarti ormai. Continuando il vecchio i detti suoi, fece maravigliare il duca assai, quando scoprendo il nome suo, gli disse esser colui che l'Evangelio scrisse, quel tanto al Redentor caro Giovanni, per cui il sermone tra i fratelli uscio, che non dovea per morte finir gli anni, sì che fu causa che il figliol di Dio a Pietro disse, perché pur t'affanni, si vo che così aspetti il venir mio. Benché non disse, egli non dè morire, si vede pur che così volse dire. Qui vi fu assunto, e trovò compagnia, che prima Enoch, il patriarca vera, eravi insieme il gran profeta Elia, che non han vista ancor l'ultima sera, e fuor dell'aria pestilente e ria si goderan l'eterna primavera finché dian segno l'angeliche tube che torni Cristo in sulla bianca nube. Con accoglienza grata il cavaliero fu dai santi alloggiato in una stanza, fu provvisto in un'altra al suo destriero di buona biada che gli fu abbastanza. De frutti a lui del paradiso diero, di tal sapor che a suo giudicio, senza scusa non sono i due primi parenti, se per quei fursi poco ubbidienti. Poi che a natura il duca avventuroso satisfece di quel che se le debbe, come col cibo, così col riposo, che tutti e tutti comodi qui vi ebbe, lasciando già l'aurora il vecchio sposo, che ancor per lunga età mai non l'increbbe, si vide incontra nell'uscir del letto il discipul da Dio, tanto diletto, che lo prese per mano e seco scorse di molte cose di silenzio degne, e poi disse: figliuol, tu non sai forse che in Francia accada, ancor che tu ne vegne. Sappi che il vostro Orlando, perché torse dal camin dritto le commesse insegne, è punito da Dio, che più s'accende contra chi egli ama più quando s'offende. Il vostro Orlando, a cui nascendo diede somma possanza a Dio con sommo ardire, e fuor dell'umano uso gli concede che ferro alcun non lo può mai ferire, perché a difesa di sua santa fede così voluto l'ha costituire, come Sansone incontra Filistei costituì a difesa degli ebrei. Renduto è il vostro Orlando al suo signore di tanti benefici iniquo merto, che quanto aver più lo dovea in favore ne è stato il fedel popol più deserto. Sì accecato l'avea l'incesto amore d'una pagana che avea già sofferto due volte e più venire empio e crudele per dar la morte al suo cugin fedele, e Dio per questo fa che gli va folle e mostra nudo il ventre, il petto e il fianco, e l'intelletto sì gli offusca e tolle che non può altrui conoscere e se manco. A questa guisa si legge che volle Nabucodonosor Dio puniranco, che 7 anni il mandò di furor pieno, sì che qual bue pasceva l'erba e il fieno. Ma, perché assai minor del paladino, che di Nabucco è stato pur l'eccesso, sol di 3 mesi, dal voler divino, a purgar questo error, termine è messo. Né ad altro effetto per tanto cammino salir quassù t'ha il Redentor concesso, se non perché da noi modo tu apprenda come ad Orlando il suo senno si renda. Gli è ver che ti bisogna altro viaggio far meco, e tutta abbandonar la terra, nel cerchio della luna a menar taggio, che dei pianeti a noi più prossima erra, perché la medicina che può saggio rendere Orlando, là dentro si serra. Come la luna questa notte sia sopra noi giunta, ci porremo in via. Di questo ed altre cose fu diffuso il parlar dell'apostolo quel giorno, ma poiché il sol s'ebbe nel mar rinchiuso, e sopra lor levò la luna il corno, un carro apparecchiosi, che era ad uso d'andar scorrendo per quei cieli intorno, quel già nelle montagne di Giudea da mortali occhi Elia levato avea. quattro destrier, via più che fiamma rossi, al giogo il santo evangelista aggiunse. E poi che con Astolfo rassettossi e prese il freno, in verso il ciel li punse. Ruotando il carro per l'aria levossi, e tosto in mezzo il fuoco eterno giunse, che il vecchio fe miracolosamente, che mentre lo passar non era ardente. Tutta la sfera varcano del fuoco, e tindi vanno al regno della luna. Veggon per la più parte esser quel loco come un acciar che non ha macchia alcuna, e lo trovano uguale o minor poco di ciò che in questo globo si raguna, in questo ultimo globo della terra, mettendo il mar che la circonda e serra. Qui vi ebbe Astolfo doppia maraviglia, che quel paese appresso era sì grande, il quale a un picciol tondo rassimiglia a noi che lo miriam da queste bande, e caguzzar conviengli ambe le ciglia, sindi la terra e il mar che intorno spande discerner vuol, che non avendo luce l'immagin lor poco alta si conduce. Altri fiumi, altri laghi, altre campagne sono lassù che non son qui tra noi, altri piani, altre valli, altre montagne, ch'han le cittadi, hanno i castelli suoi, con case delle quai mai le più magne non vide il paladin prima né poi. E vi sono ample, solitarie selve, ove le ninfe ognor cacciano belve. Non stette il duca a ricercare il tutto che là non era asceso a quell'effetto. Dall'apostolo santo fu condotto in un vallon tra due montagne e stretto, ove mirabilmente era ridotto ciò che si perde o per nostro difetto o per colpa di tempo o di fortuna. Ciò che si perde qui, là si raguna. Non pur di regni o di ricchezze parlo, in che la ruota instabile lavora, ma di quel che in poter di Thor, di darlo, non ha fortuna, intender voglio ancora. Molta fama è lassù, che come tarlo il tempo a lungo andar qua giù divora. Lassù infiniti prieghi e voti stanno che da noi peccatori a Dio si fanno. Le lacrime e i sospiri degli amanti, l'inutil tempo che si perde a giuoco, e l'ozio lungo d'uomini ignoranti. Vani disegni che non ha mai loco, i vani desideri sono tanti che la più parte ingombran di quel loco. Ciò che insomma quaggiù perdesti mai, lassù salendo ritrovar potrai. Passando il paladin per quelle biche, or di questo or di quel chiede alla guida. Vide un monte di tumide vessiche che dentro pare aver tumulti e grida, e seppe che erano le corone antiche e degli Assiri e della terra Lida e de Persi e de Greci che già furo incliti e torne quasi il nome oscuro. Ami d'oro e d'argento appresso vede in una massa che erano quei doni che si fan con speranza di mercede ai re, agli avari principi, ai patroni. Vede in ghirlande ascosi lacci e chiede e tode che sono tutte adulazioni. Di cicale scoppiate immagine hanno versi che in laude dei signor si fanno. Di nodi d'oro e di gemmati ceppi vede che han forma i mal seguiti amori. Veran d'aquile artigli e che fur seppi l'autorità che ai suoi danno i signori. I mantici che intorno han pieni i greppi sono i fumi dei principi e i favori che danno un tempo ai ganimedi suoi che se ne van col fior degli anni poi. Ruine di cittadi e di castella stavan con gran tesor qui vi sozzopra. Domanda e sa che son trattati e quella congiura che si mal par che si cuopra. Vide serpi con faccia di donzella, di monetieri e di ladroni l'opra. Poi vide bocce rotte di più sorti, che era il servir delle misere corti. Diversate minestre una gran massa vede e domanda al suo dottor ch'importe. L'elemosina è, dice, che si lassa alcun che fatta sia dopo la morte. Di vari i fiori ad un gran monte passa, che ebbe già buon odore, or putia forte. Questo era il dono, se però dir lece, che Costantino al buon Silvestro fece. Vide gran copia di pani e convisco, che erano, o donne, le bellezze vostre. Lungo sarà, se tutte in verso ordisco le cose che gli fur qui vi dimostre, che dopo mille e mille io non finisco, e vi son tutte le occurrenze nostre. Sol la pazzia non v'è poca né assai, che sta qua giù né se ne parte mai. Quivi, ad alcuni giorni e fatti sui che gli avea già perduti, si converse, che se non era interprete con lui non discernea le forme lor diverse. Poi giunse a quel che parsi averlo a noi, che mai per esso a Dio voti non ferse, io dico il senno, e n'era quivi un monte, solo assai più che l'altra cose conte. Era come un liquor sottile e molle, atto a esalar se non si tien ben chiuso, e si vedea raccolto in varie ampolle, qual più qual men capace, atte a quell'uso. Quella è maggior di tutte, in che del folle signor d'Anglante era il gran senno infuso, e fu dall'altre conosciuta quando aveva scritto di fuor senno d'Orlando. E così tutte l'altre avean scritto anco il nome di color di chi fu il senno. Del suo gran parte vide il duca Franco, ma molto più maravigliar lo fenno molti che gli credea che dramma manco non dovessero averne, e qui videnno chiara notizia che ne tenean poco, che molta quantità n'era in quel loco. Altri in amar lo perde, altri in onori, altri in cercar, scorrendo il mar, ricchezze, altri nelle speranze dei signori, altri dietro alle magiche sciocchezze, altri in gemme, altri in opere di pittori, ed altri in altro che più d'altro apprezze. Di sofisti ed astrologhi raccolto e di poeti ancor ve n'era molto. Astolfo tolse il suo, che gliel concesse lo scrittor dell'oscura Apocalisse. L'ampolla in che era il naso sol si messe, e par che quello al luogo suo ne gisse, e che Turpin da indi in qua confesse ch'Astolfo lungo tempo saggio visse, ma c'un error che fece poi fu quello ch'un'altra volta gli levò il cervello. La più capace e piena ampolla, ov'era il senno che solea far savio il conte, Astolfo tolle, e non è sì leggera come stimò con l'altra essendo a monte. Prima che il paladin da quella sfera piena di luce alle più basse smonte, menato fu dall'apostolo santo in un palagio ov'era un fiume accanto. Ch'ogni sua stanza avea piena di belli, di lin, di seta, di coton, di lana, tinti in vari colori e brutti e belli. Nel primo chiostro una femmina cana fila un aspo traea da tutti quelli, come veggian l'estate la villana traer dai bachi le bagnate spoglie quando la nuova seta si raccoglie. V'è chi, finito un vello, rimettendone viene un altro, e chi ne porta altronde. Un'altra delle filze va scegliendo il bel dal brutto che quella confonde. «Che lavor si fa qui, ch'io non l'intendo?» dice a Giovanni Astolfo. E quel risponde: «Le vecchie son le parche, che con tali stami filano vite a voi mortali. Quanto dura un de velli, tanto dura l'umana vita, e non di più un momento». Qui tien l'occhio e la morte e la natura, per saper l'ora cun debba essere spento. Scegliere le belle fila all'altra cura, perché si tesson poi per ornamento del paradiso, e dei più brutti stami si fan per li dannati aspri legami. Abbiamo trasmesso la 20ª puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.